Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è una nuova puntata di Battiture, sguardo di critica radicale al sistema carcere, in onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20, 20 e 30 su www.radiasilo.it. Sono molto contenta di salutare di nuovo tutte le persone in ascolto. Battiture è ricominciato finalmente la settimana scorsa, io però non ero in voce e anche con un pizzico di emozione voglio ricordare che anche in tutti questi mesi in cui non siamo riusciti e riuscite ad andare in onda, abbiamo comunque continuato a cercare di rimanere in contatto con il sistema del carcere e tramite anche un po' i canali social, la nostra pagina Facebook, Twitter come Battiture 2, il profilo Mastodon e Instagram e il canale Telegram dal nome Battiture. In questa puntata di oggi parleremo di varie notizie che riguardano le carceri italiane, avremo un breve sguardo anche su ciò che accade all'estero e infine un contributo di una radio che amiamo molto, Radio Cane. E quando i frati che i frati scomparsi e vedi tutti i sangue sparsi fanno brutto per noi, ma non per chi si sparte in parte tutta la vita. Partiamo quindi dalla situazione nelle carceri italiane, soprattutto dalle notizie che ci sono state in quest'ultima settimana, e cominciamo purtroppo, come spesso ci capita di fare, dalle notizie di morti dell'universo carcere, quindi morti che spesso non avvengono solo all'interno delle mura del carcere ma anche al di fuori, perché la violenza del carcere riesce ad estendere le sue maglie in tutta la società. Infatti parlo della notizia di un uomo di 45 anni che in questa settimana a Trieste si è lanciato nel vuoto. I carabinieri si erano presentati al suo domicilio per notificare un'ordinanza di revoca appunto degli arresti domiciliari. Quest'uomo era agli arresti domiciliari. Questa persona si è mostrata in un primo momento collaborativa, addirittura rassicurato la madre, il fratello, era lì agli arresti domiciliari con i suoi familiari ed ha iniziato a radunare alcuni piccoli oggetti personali per preparare l'odiata borsa che purtroppo le persone che hanno in qualche modo avuto o hanno a che fare con il carcere hanno ben presente che cosa sia. All'improvviso l'uomo però si è, senza dare alcun segnale di avvertimento, ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto. Ha scelto la morte piuttosto che ritornare in carcere. Infatti quest'uomo c'era già stato e poi aveva avuto la possibilità di essere agli arresti domiciliari. Questo ci ha fatto riflettere, appunto, e dovrebbe far riflettere su come il carcere, le morti di carcere non sono solo le morti in cui palesemente la motivazione immediata a cui si pensa il carcere, ossia i suicidi che avvengono all'interno della cella, ma davvero il carcere riesce ad estendere la sua violenza prima, dopo, e a segnare definitivamente la vita di una persona. Come spesso ci capita, abbiamo riportato questa notizia sui nostri canali social linkando un articolo di un media mainstream, anche locale, perché poi questa notizia non è certo balzata alla cronaca nazionale, ma solamente è rimasta nell'ambito della cronaca locale. Spesso ci capita di linkare degli articoli di giornale che in realtà non condividiamo in pieno. Il nostro obiettivo è solamente riuscire a dare qualche dato in più rispetto alla notizia che diamo, ma ovviamente anche in questo caso questo articolo era pieno di tutta quella retorica che noi molto odiamo, e soprattutto, come spesso accade, all'interno vi erano quei dettagli, quei particolari che in realtà non servono affatto per la notizia, ma che sono sempre in prima battuta quando si parla di carcere. Ed ovviamente sto parlando della tipologia di reato commesso, che viene sottolineata proprio per gettare discredito sulle persone che vivono il carcere e sul comportamento delle persone che vivono il carcere, sulla condotta morale delle persone che vivono il carcere. E tutto questo ovviamente i media mainstream lo fanno perché l'obiettivo, come sempre, è quello di in qualche modo instaurare quel meccanismo per cui ognuno ed ognuna di noi che ormai legge una notizia, ovunque essa sia, su un giornale, su un sito o la senta al telegiornale, il meccanismo è che automaticamente ognuno ed ognuna di noi deve diventare l'arbitro, il giudice, il censore, il moralista, quello che colui e colei che stabiliscono che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, o condannano o salvano le persone. E questo meccanismo è un meccanismo terribile che a volte anche sui social si amplifica, e che è un grande gioco che fanno i media, e che in fondo è il gioco di chi vuole mantenere queste istituzioni sociali per riuscire a spostare, diciamo, l'attenzione dalla violenza sistemica dello Stato a quella del singolo, dividendo, isolando le persone. In realtà quello che noi vorremmo sempre sottolineare è che una società senza carcere può e deve esistere. Tra i particolari, appunto, che dava questo articolaccio che abbiamo linkato, sarà anche la motivazione, diciamo, per cui era stato notificato quella revoca degli arresti domiciliari. L'uomo in questione si sarebbe macchiato di aver violato appunto le misure cautelari previste dagli arresti domiciliari, e questo ci collega in realtà ad un'altra notizia anche sempre di questi giorni, che riguarda un'altra persona in realtà abbastanza nota, in quanto non solo un avvocato, anche se è stato poi dopo radiato dall'ordine per le vicende legali che lo hanno visto protagonista, ma noto nella zona di Agrigento anche perché è stato l'ex presidente di Legambiente, un ex consigliere comunale, se non ricordo male anche più volte un candidato sindaco. Questa persona comunque è stata implicata nel tempo in delle vicende di natura legale, per cui dopo un periodo di messa alla prova gli è stata concessa, dopo essere stato condannato e dopo un periodo di messa alla prova gli è stata concessa la semilibertà. Semilibertà ovviamente che comprendeva, diciamo, l'impossibilità per lui di comunicare, quindi non doveva comunicare, non doveva manifestare, non doveva inviare email. Questa persona ha scelto di contrastare direttamente queste imposizioni, e l'ha fatto in un modo esplicito, inviando addirittura una PEC al Tribunale di Sorveglianza di Palermo e quindi violandola direttamente. Ovviamente il Tribunale di Sorveglianza ha immediatamente emesso un provvedimento di revoca della sua semilibertà, per cui questa persona è stata immediatamente trasferita al carcere di Agrigento. Ovviamente parliamo appunto di una persona che è stata un politico, un avvocato, quindi sa bene di che cosa parla, ed ha detto che continuerà la sua battaglia per la libertà personale, perché appunto il suo gesto era un gesto plateale di condanna di tutte quelle che sono le misure di sorveglianza, che assumono forma diversa a seconda della situazione: semilibertà, domiciliari, sorveglianza speciale, eccetera, ma sono sempre misure di sorveglianza che limitano la libertà delle persone in un modo tale che spesso, anche se non si è fisicamente nelle mura del carcere, in realtà è come se si vivesse ugualmente in una prigione. Mi viene in mente anche ultimamente, ad esempio, Dana, la famosa attivista NoTav, che da poco ha avuto la possibilità di andare ai domiciliari, e pur tuttavia contemporaneamente le è stato imposto di non avere alcun tipo di contatto con gli attivisti e le attiviste NoTav, come in questi giorni abbia appunto fatto sapere che questa era per lei una difficoltà molto grande. Era molto felice di essere a casa, pur tuttavia l'impossibilità di contattare parlare, abbracciare le persone che le sono più care la sentiva come una difficoltà reale. Quindi questa notizia per noi è per poter parlare, il gesto dell'avvocato per noi è la possibilità di poter parlare appunto di come le sbarre spesso non siano solo fisiche, ma siano anche di altro tipo, altra forma, e siano anche molto più estese. Questo avvocato ha detto che proseguirà la sua battaglia con uno sciopero della fame all'interno del carcere, e ha sottolineato come in effetti la Corte di Strasburgo abbia più volte sanzionato l'Italia per non essersi allineata a quelle che sono state da parecchio tempo le sue stesse direttive in tema di pene detentive relative al reato di diffamazione, che non può essere punito con il carcere. Solo come Nemo, ma Nemo, Nemo. Bella lì, bitch, Fritz, Fritz, Fritz, pinto come tinto, vivo, Skonken, Fonken, Ben Ben, Fanku. Parliamo ora di un'altra notizia che ha tenuto un po' con il fiato sospeso per qualche giorno, in quanto venerdì, durante le ore di lavoro esterno nel carcere di di Perugia, in realtà in una palazzina attigua al carcere, ma sempre all'interno del complesso carcerario, un uomo di 38 anni è riuscito ad allontanarsi ed evadere. Fuga che è durata molto poco, perché sabato, quindi a poco più di 24 ore di distanza, è stato ripreso sempre in una zona del più o meno di Perugia. E prima di ascoltare un po' di musica, riprendiamo una notizia che abbiamo già dato, anche se non è stata la mia voce, ma abbiamo già dato la settimana scorsa, riguardante il carcere di Foggia, che è un focolaio di coronavirus terribile. La situazione da una settimana all'altra non è cambiata, perché pur nella difficoltà di reperire delle notizie il più possibile, diciamo, realistiche rispetto alla situazione del carcere, sostanzialmente si tratta ancora, una settimana di distanza, di circa una settantina di persone detenute che sono contagiate, e non si conosce lo stato di salute delle quattro persone piuttosto gravi che sono state portate in ospedale. Il coronavirus anche in questo periodo continua ad essere un problema fortissimo per le carceri italiane, e proprio poco, circa un mese fa, è uscito il primo report riguardante la situazione dall'inizio della pandemia ad oggi, e solo dai dati ufficiali si parla di 18 morti per coronavirus. Ovviamente nelle morti per coronavirus, in carcere ancora più che ciò che accade all'esterno, spesso non vengono incluse delle morti che vengono accreditate ad altro tipo di malattie, ma che in realtà sono state peggiorate, aggravate, o comunque la morte è avvenuta in presenza anche del virus. Quindi sicuramente questo dato, sebbene così pesante, di 18 persone decedute, è sicuramente sottostimato. Adesso ascoltiamo un po' di musica, non ho idea del brano che ascolteremo, ma sarà sicuramente piacevole. Dorio, Dorio, ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Sì, farò in macchina, fumando un coppe cuofre, prima fati con microfono, e cose rosse a chi ci prova, e troia a chi si trova, Luca produce, e dinte strofe, e povera, e non fama che ti fanno muore. Se è Dorione, chi sta rindo, veste buono, a moglie spenne, se pompo, aglione, che penne, in Dorione, in taglio vero, t'offro un taglio a due barbiere, vota a roba, tremmo mentre a stregno ferro, capo te non l'ombra, frate contro a frate, mettete pure la mano in fronte, ma nato le esago, ma capi, chi porta in masciata, sto mondo zoppo, non so piglio meglio di lui. Tutto l'acqua, perché l'aria, chi ne raggia, fra, so frate incatenato, e la vita scorre innanzi a luce, mentre fui, fra, in sto camiscan, caffè, latte, cappuccino, femma una rirena, e a capa amica non cammina, e so cresciuto con chi venne, cagni e marci in mano, sembrava studio firmata, senza bisogno, repate in mo, c'è vira rinde in macchina, che rode più grosse, le capa nostre, fanno apposta, si ci guardano, ma io sono classica, piscia a ziele Napoli, che si senta ad Alessia, roba, fallo già cattivo, e ci fa tutto quanto, e tutta coca che si tira, non coppi, sposarsi, ci sono state a due saccire là, mi rappresenta vita vera, quella che manna, coppa e righiera, tuo piacere, sa misura a strisce, ammirazione, perché è ricca senza rischi, a strada come ispirazione, ci trovi d'ora, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. C'è tuo vittorio, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, e dinte frase nostra rivoluzione, chi se suono nuovo sai che è malamore. Casa Bina Cinta, che 9 e 21, e cellulare squilla, ne faccio 40 anni schina, quanto costa, e vira sotto a luce a roba scava. A strada rata nata esame e non ci pare strano. E mano in mano che i figli nuovi si fanno uomini. Prima si fa russi che si sai che faccio russi. Il mostro qua con buona mano aspettando con sangue lavara. Guardando i conti trasi e tutti i fratelli. Prima bene ne poi moro ne si abbruciano. Fattramente rima non si sono ne ci mannano. 1500 guardie e giù femmina mancuna e nuove perché fa male. A pietà nulla sacci capace nudo via perché si porta a raggio mia sapia. Perché se tarantella si mangia la faccia mia e non so stanco e giù me danno e giù me più. Ammiri il rosa e ammiricina la musica tu come risci i cresci muscoli e vene e carica senza tabacco senza una braccia faccio il conno non nilla si fa nomine che sacca tiene ti è di casa perché chi vuole essere ci fa vedere quanti complesso tene qua per l'accendere e casa popolare qua di consonante a di vocale sta mala non potto buttare agenda nostra a Germania poi non meglio pochi bagagli e sordi rinde in buste plastiche buoni qualcuno punto uno stato che cappotto fa ma senza bordo è tutto a posto ho già vita cosa te vero in elegante te tenano in ganna sono ridicolo né di che non me loro comunica non giudica l'amore è l'unico che adora ancora e se perdi in Dorio ci trovi in Dorio. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in dei frasi nostra rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. C'è nuovo Vittorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in dei frasi nostra rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. C'è nuovo Vittorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in dei frasi nostra rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. C'è nuovo Vittorione. Non mi sento buona mamma che mi succede i frati mi soffumano ancora e dimmi frasi no sta rivoluzione il suo suono nuovo sai che è malamore. Nel luglio del 2019 parte un'operazione dal nome Canadian 'Ndrangheta Connection e parte su impulso della DDA di Reggio Calabria per colpire una ramificazione dell'Ndrangheta calabrese in Canada. In questa operazione vengono arrestate 6 persone, stiamo quindi parlando del 2019. Pochissimi giorni fa il Tribunale di Locri ha assolto dalle accuse di associazione mafiosa per non aver proprio commesso il fatto, quindi assolto in formula piena, le 6 persone coimputate che si sono trovate nel processo. Quindi delle persone che erano in arresto sono state liberate. Non tutte però, una persona non ha ritrovato la sua libertà. Questa persona infatti purtroppo in carcere ha perso la vita. Era un uomo che è finito in quel momento in manette nonostante avesse dei gravissimi problemi fisici. Molto giovane, infatti, a causa di un grave incidente stradale all'età di 18 anni aveva perso una gamba e in seguito a quell'incidente aveva dovuto indossare una protesi, quindi è entrato in carcere già in condizioni fisiche gravi con una protesi alla gamba e anche con uno stato di depressione che pare in qualche modo si sia trascinato dietro questa patologia fin dall'incidente. Viene rinchiuso nel carcere di Reggio Calabria, che risulta fin da subito, diciamo, piuttosto inadeguato rispetto alle necessità di questa persona, come del resto forse qualsiasi carcere, ma diciamo in questo caso l'inadeguatezza è proprio certificata, diciamo, nero su bianco, messa nera su bianco dai medici che dicono che non sono del carcere, che dicono che non sono in grado di prendersi cura di una persona che ha questa problematica fisica così particolare. Per cui con la sua brava cartella sanitaria quest'uomo viene trasferito dal carcere di Reggio Calabria al carcere di Voghera. Ovviamente anche nel carcere di Voghera non ci sono le condizioni perché lui possa avere un'assistenza adeguata, mancano totalmente le strutture, manca totalmente la possibilità di accedere a delle cure specializzate, per cui ciò che accade è che mentre è in bagno per fare la doccia un giorno quest'uomo cade E questo avviene perché quando si ha una protesi senza l'ordinaria fisioterapia, senza anche una manutenzione adeguata della protesi, il risultato è che anche il moncone della gamba, anche la protesi stessa hanno dei danni, e quindi non avendo potuto avere questi interventi fisioterapici e queste lavori sulla protesi, quest'uomo cade, e dopo questa caduta ha anche un trauma cranico molto importante. Ovviamente in queste ulteriori condizioni il suo avvocato chiede la concessione dei domiciliari, ma assolutamente, seppure sia visitato in carcere e i consulenti certifichino ancora una volta l'incompatibilità per quest'uomo, incompatibilità con il carcere, pur tuttavia il GIP non procede, per cui non procede, passa il procedimento ancora ad un altro giudice, ancora, sostanzialmente finché alla fine l'istanza non viene rigettata. E tutto ciò, diciamo, senza che ci sia alcuna richiesta di ulteriori disposizioni, altre perizie o altro, semplicemente si chiede al DAP di individuare una struttura dove quest'uomo possa fare fisioterapia. Una serie di carte, viene richiesto al carcere di Voghera di verificare dove fosse possibile fare questa fisioterapia, si individua Busto Arsizio, ma sostanzialmente non succede niente. Intanto quest'uomo resta in carcere in queste condizioni. Pochi giorni dopo, di fronte a questa impossibilità di avere un miglioramento delle proprie condizioni, quest'uomo si toglie la vita, si impicca nella sua cella, come purtroppo accade così di sovente. E questo anni prima di poter essere assolto, come abbiamo detto pochi giorni fa, nel processo che quindi assolve 6 persone, ma ne libera agli arresti solo 5. Abbiamo parlato molto a questi microfoni e credo che continueremo a parlarne ancora per molto delle rivolte dello scorso anno, di tutto ciò che è avvenuto dopo quelle rivolte e delle morti terribili che ci sono state. Abbiamo parlato anche molto spesso della strage che c'è stata al Sant'Anna. Cerchiamo di tenervi aggiornati anche su quelle che sono le ultime vicende e quindi ritorniamo ancora una volta a parlare della strage al Sant'Anna. Tra l'altro la procura ha ormai chiesto l'archiviazione per 8 decessi su 9, in quanto pare che confermi la versione dell'eccessivo uso di metadone, però solo per 9 persone, per 8 persone appunto su 9. Per una persona la procura stessa comincia a parlare di una morte avvenuta in seguito a pestaggi eccessivi, quindi ovviamente ci chiediamo se questo è possibile per una di quelle persone, come mai poi la procura sia così certa invece chiede l'archiviazione per gli altri casi. In ogni caso non è di questo ciò di cui volevamo parlare, ma darvi qualche aggiornamento sulla situazione di Belmonte Cavazza, il nome che qualcuno ricorderà perché è uno dei 5 coraggiosissimi detenuti i cui nomi sono girati negli ultimi mesi, perché appunto hanno avuto il coraggio di scrivere l'esposto dal carcere di Ascoli Piceno sulla mattanza che è avvenuta a Modena e che ha portato alla morte di tante persone, ma fra queste soprattutto di un loro compagno, caro amico deceduto, Sasà Piscitelli. Si è venuti a conoscere tramite lettera pochi giorni fa che Belmonte, appunto, che il 19 di aprile aveva finito di scontare la sua pena in carcere e quindi aspettava, dopo ben 19 anni di galera, di poter ritornare in libertà. Il 23 aprile è stato invece trasferito in una casa di lavoro di Castelfranco Emilia per una misura di sicurezza che lui dice lo perseguita dal 2003. Il 27 aprile a Belmonte ha intrapreso uno sciopero della fame e le sue dichiarazioni, la motivazione è: da diversi anni mi tengono sequestrato dallo Stato italiano e quindi non ho altre vie per protestare contro questo abuso di potere che ha il nostro ordinamento penitenziario in Italia. Mi trattengono con delle normative di Benito Mussolini del 33 e poi festeggiano la liberazione dal nazismo. Ricordiamo che è sempre possibile e è sempre doveroso scrivere a queste 5 persone coraggiose, e quindi vi lasciamo il nuovo indirizzo di Belmonte, potete scrivergli Belmonte Cavazza, via Forte Urbano 1 41 013 Castelfranco Emilia Modena. Piglio pulmani in da te la vivi, che ti ha pigliato a te che ti ha. Sono più forte che attento, tu immagini ancora che mi fine tu comprerà. Spille in bottiglia, cagnella, rirem, faccia morto, ritorna, so ciò camminà. L'amica chiama sta post, ha c'è passata frontiera, viene ma piglia. Sterile sono che discorso, quando si tratta di renare, vorreste via. Sempre per restare sul tema delle rivolte dello scorso anno, diamo una notizia che riguarda anche il carcere di Pavia, Torre del Gallo. L'anno scorso, dopo la rivolta dell'8 marzo, ci furono all'interno del carcere dei pestaggi violentissimi e alcuni mesi fa, già diverso tempo fa, quindi il giudice in realtà aveva deciso l'archiviazione per questi pestaggi. In realtà in questi giorni un altro giudice oggi riapre proprio le indagini. Quello che noi sappiamo è che dopo la rivolta dell'8 marzo, in base ai racconti delle persone detenute, il giorno dopo, il 9 marzo, degli agenti sono entrati di notte nelle celle. Durante la notte hanno iniziato ad insultare e minacciare diverse persone detenute. Il giorno dopo ancora alcuni detenuti sono stati chiamati nella saletta ricreativa e una volta che si sono trovati lì sono stati oggetto di pestaggi violentissimi. Oggi appunto le indagini su questi pestaggi si riaprono. Qui me défie, défie le vent, la tempête en récolte toujours ce que l'on sait, on sait. Les gars, mes gars, c'est sa monnaie, des dorongos, restez bagonnant, demandant, mais pas c'est tout seul, c'est lui, mille et t-shirts, de garade, je pèse à mon armade, et peu nous dans des belles récompenses. Côté compagnie, compagnie, à mon amour, vive champagne, bon fumo, canavon, bride et popille, que pour les malamènes, solo speranza, la stessa comme c'est. La stessa sirène, rindamende, non capisco se finziono, si io veramente. Ma faccio un balcone che sta a cadere al mend. A capa mi non funziona un capa che sta gente evidente. Sento sti sirenari. Un'ultima notizia riguarda per il momento, poi dopo ne riprenderemo ancora altre, ma una prima di avere un nuovo stacco musicale riguarda la nostra regione, la Campania. Il garante regionale che noi tutti conosciamo si è recato in questi giorni nella REMS di San Nicola Baronia e nell'articolazione psichiatrica presso la casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. E il risultato della sua vita, in cui lui ha incontrato le 20 persone che abitano appunto nella REMS, che sono recluse, pardon, più che abitare nella REMS. La sua conclusione è che purtroppo queste persone rischiano di vivere una doppia reclusione. Queste sono state le sue parole, senza specificare molto di più. Tra l'altro ha in qualche modo sorvolato, comunque ha minimizzato le richieste delle persone recluse che gli hanno posto direttamente, che sono invece richieste che a noi sembrano molto importanti, come per esempio la qualità del cibo che arriva dall'esterno ed è un vitto molto molto scadente. Lui le ha minimizzate dicendo che magari se ci fosse un cucinetto interno si creerebbe anche un clima familiare. Ha donato delle pitture affinché potessero fare dei murales, quindi ha calcato molto la mano su questi elementi senza sottolineare o quantomeno è stato solo un passaggio in cui ha detto c'è una solita nota dolente, che è quella che non ci sono medici, non ci sono medici di nessun tipo, non ci sono medici di base, non ci sono specialisti, psichiatri, psicologi, niente di niente, quindi questa solita nota dolente che così en passant il garante ha nominato, ci chiediamo quindi in che cosa poi si distingua questa REMS o questa articolazione psichiatrica dal resto delle strutture detentive. Fa partire il segnale, sono entrati in bagnale. A questo proposito aggiungiamo alle due notizie di prima un altro paio di elementi per quanto riguarda il carcere di Pavia, che abbiamo nominato prima, che ho nominato prima per la questione dei pestaggi. C'è da dire che per le rivolte però ci sono 99 persone detenute che sono indagate, accusate di vari reati, devastazione, saccheggio, resistenza a pubblico ufficiale. E quindi purtroppo si aspetta il processo e inoltre il carcere di Pavia è un carcere che ha risentito tantissimo, non che le altre no, però il carcere di Pavia ha veramente risentito tantissimo del coronavirus, è stato per ben due volte un focolaio molto grande di coronavirus, scoppiato in sezioni diverse, ma è stato molto forte, e le persone che sono recluse all'interno vivono un isolamento dall'inizio della pandemia davvero terribile, hanno solamente videochiamate, chiamate, pacchi, i colloqui sono stati non ci sono stati quasi mai dall'inizio della pandemia, così come la ripresa di un qualsiasi tipo di attività. E invece, parlando sempre di psichiatria, prima abbiamo nominato le REMS, la REMS è l'articolazione psichiatrica che c'è a Sant'Angelo dei Lombardi. Facciamo un passaggio veloce su quella che ci sembra una notizia comunque molto importante di questi giorni. Come sappiamo, mercoledì scorso, e dico come sappiamo perché di questa notizia davvero si è parlato tanto, ma forse nel modo sbagliato, il 5 maggio uno studente di Fano di 18 anni si è rifiutato di essere a scuola con la mascherina, di indossarla, e voleva però diciamo palesemente non voleva essere allontanato da scuola, per cui si è anche incatenato al banco. La scuola ha ben pensato di chiamare ad intervenire la polizia, il 118, e quindi che hanno portato via il ragazzo. Fin qui ci sono diverse testimonianze anche di video, di foto che mostrano anche come il ragazzo sia comunque molto collaborativo, sia molto tranquillo anche rispetto all'intervento del 118. Il racconto è che poi al pronto soccorso il ragazzo, nel tentativo, cioè di fronte alla richiesta di essere sottoposto a tampone, si è invece improvvisamente diventato un po' come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, una palla di rabbia, per cui ha avuto un'esplosione e è diventato assolutamente indispensabile che questo ragazzo fosse sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Quindi è cominciato un TSO, se ne è parlato molto, è stato diciamo una piccola notizia che è stata manipolata anche politicamente, forse per la prima volta o raramente è accaduto, tanti politici anche di destra si sono scagliati contro questo TSO. In ogni caso la notizia da dare oggi è che questo ragazzo fortunatamente è stato rilasciato, il TSO non è stato rinnovato. Le prime notizie era che avrebbe dovuto essere rilasciato mercoledì prossimo, quindi durare 15 giorni, invece fortunatamente oggi è stato rilasciato. Diamo queste notizie perché per noi il sistema carcere non è solamente le mura delle tante galere che ci sono in Italia e nel mondo, ma sono tutte le restrizioni della libertà operate dalle istituzioni, e quindi ovviamente anche i trattamenti sanitari obbligatori. Adesso ascoltiamo un pezzo, a dopo. torniamo in voce dopo questo pezzo per parlare degli scioperi della fame a cui abbiamo fatto accenno anche la settimana scorsa, di persone incarcerate, e cominciamo con una dichiarazione che adesso vi leggeremo riguardante la fine dello sciopero della fame di compagni anarchici e sovversivi e compagne anarchiche e sovversive che si trovano nelle carceri cilene. Questo comunicato è stato, noi lo riprendiamo da Abolition Media Worldwide ed è stato diffuso a popoli, individui, comunità e territori in lotta e resistenza, a coloro che si ribellano di fronte a questo presente di oppressione e miseria, alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri complici, compagni e persone care in tutto il mondo, a tutti. Noi le anarchiche prigioniere sovversive della guerra sociale chiediamo... Dichiariamo la nostra decisione di porre fine alla nostra mobilitazione, uno sciopero della fame, dopo 50 giorni di intensa agitazione e azione nelle carceri e nelle strade, in un quadro urgente di controllo e repressione sociale, per chiedere contro l'ergastolo e per l'abrogazione delle modifiche al decreto legislativo numero 321 e per il rilascio del nostro compagno Marcelo Villaroel. Dopo tutto questo tempo siamo decisi a porre fine a questa mobilitazione con il cuore pieno di gioia, accogliendo con anarchica e sovversiva complicità ognuno dei gesti e delle iniziative che sono state portate avanti nel corso della mobilitazione, da Svezia, Finlandia, Grecia, Italia, Catalogna, Paesi Baschi, Spagna, Germania, Messico, Guatemala, Costa Rica, Perù, Bolivia, Colombia, Brasile, Uruguay, Argentina, Cile e altri territori dove c'è resistenza e offensiva. Ci sono state iniziative di complicità e solidarietà da parte di Compass, che per molti versi hanno agito aderendo alle nostre lotte in questo tempo di reclusione. Dal ventre del nemico dimostriamo ancora una volta che siamo lontani dal tacere, che siamo motivati e coerenti e che diamo continuità a una vita di insubordinazione e ribellione, lottando dal carcere per la possibilità della piena libertà individuale e collettiva e puntando sempre alla distruzione del sistema di dominio e di tutti i suoi dispositivi di controllo. Questa è e sarà l'essenza delle nostre vite e oggi come ostaggi. Sottolineiamo con enfasi quanto siamo orgogliosi di aver intrapreso contro ogni previsione il percorso turbolento della guerra sociale. Per questo troviamo nel passaggio all'azione, che implica l'azione collettiva, tappe importanti per lo sviluppo della nostra individualità nel suo insieme. Riconosciamo le nostre differenze e superandole cerchiamo nuove strade comuni attraverso le quali minare il dominio, con aspre critiche al diniego. Oggi ci sentiamo più a nostro agio e più uniti che mai, sul piede di guerra, pronti e desiderosi di continuare in questa battaglia e in tutte quelle che nasceranno dalle nostre lotte. È questo metodo, questa forma che metteremo momentaneamente da parte. Resta intatta la scintilla, l'idea che ha spinto l'utilizzo di questo strumento, intatto e soddisfatto della sua azione coerente, perché riusciamo a stabilire rapporti reali di affinità, perché ci presentiamo con autenticità e decisione, ma non esistono formule perfette. Assumiamo un solido progresso attraverso la lotta dentro e fuori il carcere per rendere evidente al mondo intero l'esistenza del decreto numero 321 e dell'ergastolo segreto che esso contiene, a dimostrazione che non abbiamo bisogno di canali istituzionali per esso e che le nostre voci riescono a farsi sentire come verità di prigionieri che lottano per la liberazione totale, che smascherano anche l'aberrazione giuridica rappresentata da questo decreto legge, che gode della complicità di tutta la classe politica che afferma il potere. Siamo anche riusciti ad articolare una lotta da diverse carceri e territori e da diverse tendenze rivoluzionarie e anti-autoritarie basate sulla solidarietà sovversiva, che ha saputo unire in criteri comuni e chiaramente questo gruppo di compagni di prigionia, insieme ai loro complici e reti di solidarietà in diverse parti del pianeta. Ne escono rafforzati tutti, contribuendo alla fraternità internazionalista per la demolizione delle carceri e con essa alla lotta anticarceraria in ogni territorio. Lo status di mobilitazione permanente continuerà a vivere, insieme di complicità e certamente di amore in guerra. Inoltre consideriamo un progresso sostanziale che va nella direzione delle nostre richieste. 1. L'istituzione di un deposito cauzionale a favore di Marcelo, in modo che possa avere accesso al suo diritto che è la richiesta di libertà condizionale. 2. Il ritorno di 665 giorni di riduzione per Juan Flores. 3. L'attivazione di un dispositivo politico legale per una riflessione profonda sul decreto legge numero 321 e delle sue implicazioni dannose nelle carceri statali, che richiede che l'INH, cioè l'Istituto Nazionale di Diritti Umani in Cile, prenda chiaramente posizione. L'attenzione specifica e l'intervento di altre organizzazioni in merito al sistema di isolamento che si sperimenta nella sezione di alta sicurezza e nelle sezioni di massima sicurezza. E infine 4. La non applicazione delle pene per chi ha partecipato allo sciopero della fame. Sappiamo che la nostra lotta quotidiana contro la reclusione è piena di difficoltà, soprattutto perché siamo in diverse carceri, in diverse situazioni legali, in diverse situazioni carcerarie, ma l'essenziale è stato il chiaro accordo di tutto il nostro universo attivo di Compass, che in questo, che in nessun momento ha ceduto le sue armi rispetto al nostro obiettivo di liberazione totale. Migliaia di lezioni possono essere tratte da questi 50 giorni. L'essenziale è la forza delle nostre convinzioni che nella più profonda orizzontalità, nell'affinità, nell'aiuto reciproco è riuscita attraverso una pluralità di forme di azione a far passare le nostre esigenze in tante lingue, in tanti territori diversi, approfondendo la lotta contro la carcerazione del nostro tempo. È qui ed ora che continuiamo a chiedere perseveranza e azione, elevando il livello delle azioni e cercando di rafforzare ciò che ci unisce piuttosto che ciò che ci separa, perché il percorso che abbiamo tracciato è stato, è e sarà quello di una lotta costante, millimetro per millimetro, che richiede le esperienze e i desideri più ampi. Questa lotta irriducibile è stato un bellissimo atto collettivo che riesce a unificare i tempi e riflette la continuità delle lotte ribelli, parte delle sfaccettate battaglie della guerra sociale. Questa mobilitazione è durata molto tempo, è il risultato di tutto il nostro odio e di tutta la nostra rabbia, trasformato in azione, e nessuna barriera può ostacolare la nostra posizione, che rappresenta una sfida contro ogni forma di dominio. La nostra condizione di prigionieri sovversivi anarchici si manifesta in questa pratica che supera il tempo e la reclusione. Mescola le acque finché non riescono a spostare le pietre. Consideriamo questo momento come un punto di svolta in questo universo di prigionieri sovversivi anarchici che vivono in prigione da anni, subendo la vile vendetta dello Stato. La nostra scelta è sempre stata la lotta di fronte ai nostri fratelli e sorelle senza nascondere nulla, imparando giorno dopo giorno dalle nostre perdite e dai nostri errori e tornando sempre a combattere senza mai rassegnarsi. Questo periodo di mobilitazione, nonostante il silenzio totale del potere e la sua stampa servile, è stato ricco di diversi gesti di solidarietà, di cui siamo grati. Li ammiriamo e li rispettiamo. A chi si cimenta nell'attacco, a chi moltiplica e amplifica la voce dei prigionieri, a chi ci ha sostenuto con totale attaccamento e lealtà, a ogni compa che resiste, al nostro fratello Juan Ferdinandez, che dopo decenni di prigionie e lunghe condanne, oggi è imprigionato nel carcere di Terni, in Italia, al suo cuore irriducibile, a Pola Ropa, a Nikos Matsiotis, va la nostra fraternità rivoluzionaria, ai nostri complici di tutte le regioni e territori va il nostro amore nella guerra. Pensiamo agli sfruttati ribelli in rivolta nella regione colombiana, oggi feriti dai paramilitari nazifascisti dello Stato, e siamo solidali con loro. Allo stesso modo le nostre lotte quotidiane continuano. 1. Per l'estensione della solidarietà attiva ai prigionieri sovversivi anarchici, prigionieri della rivolta e per la liberazione mapuche. 2. Per la fine della detenzione preventiva come strumento di punizione. 3. Appoggiamo la richiesta dei mapuche di applicare la convenzione numero 169 alla situazione dei loro fratelli e sorelle imprigionati. 4. Per la fine delle sentenze di giustizia militare contro Juan e Marcelo. Continuiamo a lottare per ogni esigenza che ci ha motivati per questa emergenza, quindi per l'abrogazione delle modifiche del decreto legge numero 321, per la libertà per Marcelo. Abbracciamo tutti coloro che ci hanno accompagnato e tutte le persone con cui abbiamo intessuto e rafforzato legami in questo momento di lotta autonoma contro le carceri, senza rallentare il ritmo dell'azione, salutando tutti coloro che lottano contro Stato, prigione e capitale. Continuiamo. Poi seguono anche le firme, scusatemi se ho letto con un po' di difficoltà, ma traducevo contemporaneamente, quindi avevo già letto, ma magari ho avuto qualche inciampo. vorrei solo aggiungere al comunicato precedente che, come dicevamo anche la scorsa settimana, anche in Italia noi avevamo Juan e Beppe in sciopero della fame, in solidarietà con lo sciopero, in solidarietà allo sciopero della fame che avveniva in Cile, ma anche a tutte le persone imprigionate in lotta. Così come si è interrotto lo sciopero della fame in Cile, sappiamo, oggi abbiamo saputo che anche Beppe e Juan hanno interrotto il loro sciopero della fame. E ancora in Italia diamo un'altra notizia, sempre di questi giorni, ma che in realtà si ricollega ad un evento di cui abbiamo parlato molto in questa trasmissione, molto anche sui nostri social, che è la questione delle torture e delle violenze che sono avvenute nel carcere di San Gimignano. E ne riparliamo perché sono appena state depositate proprio in questi giorni le motivazioni della sentenza che ha visto la condanna di 10 agenti della polizia penitenziaria. Riepiloghiamo brevemente i fatti. Sappiamo che l'11 ottobre del 2018 una persona detenuta nel carcere di San Gimignano di origini tunisine è stato, diciamo, spostato tra virgolette dalla cella che occupava ad un'altra cella. Nel momento di questo spostamento, sempre tra virgolette, è stato documentato da un video che tra l'altro noi abbiamo appunto avuto la possibilità anche di far circolare tramite i nostri social, un video che mostra chiaramente come 14 agenti abbiano attuato una tortura senza pari nei confronti di questa persona. Questo gruppo di 14 agenti, di cui uno è in testa, che nel video si vede passa, inizia ad andare avanti chiudendo gli spioncini delle celle vicine alla cella dove si trova questa persona tunisina detenuta, arrivano avanti alla cella della persona, gli aprono la porta e uno di questi gli intima di uscire. In realtà, come gli stessi giudici poi che hanno avuto la possibilità di visionare il filmato diranno poi anche nella sentenza, questa persona immediatamente esce con fare molto tranquillo e collaborativo dalla propria cella, anche perché sappiamo dalle persone detenute che in realtà era il momento in cui probabilmente quella persona aspettava di andare al bagno, di essere portata al vano docce per fare la doccia. Da lì lui esce collaborativo, cominciano una serie di spinte che ovviamente lo fanno cadere a terra, proprio perché appunto la persona detenuta non reagisce, e anche lì a terra cominciano una serie di calci molto forti. A questa persona vengono tolti i pantaloni e quindi mentre a terra, e quindi poi viene all'improvviso ripreso, risollevato, ormai seminudo, e viene praticamente trascinato, mentre si vede che è già anche abbastanza fisicamente provato dal pestaggio che sta subendo, e mentre viene trascinato, ovviamente forse per il peso anche che non riescono a sostenere, questa persona che evidentemente cominciava già a stare malissimo ricade a terra. E a questo punto una di queste guardie penitenziarie, tra l'altro dalla mole notevole, sostanzialmente una persona davvero molto grassa, praticamente obesa, si inginocchia sul corpo di questa persona detenuta, che si trovava in quel momento pancia a terra, quindi si inginocchia sulla schiena della persona detenuta. E lui e anche un altro agente a questo punto cominciano a stringerla al collo, con le braccia al collo, proprio una visione terribile, sembra che lo stiano soffocando. E gli torcono dietro la schiena, lo rialzano e gli torcono dietro la schiena con forza un braccio. A questo punto lo spintonano nella cella in cui evidentemente era destinato, e quindi lì il video in qualche modo si interrompe, nel senso che non entra all'interno della cella, quindi chissà cosa poi ha ulteriormente dovuto subire questa povera persona detenuta all'interno di questa cella in cui era stato trascinato. Le motivazioni della sentenza di condanna che sono uscite appunto in questi giorni sono chiarissime. Per il giudice si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di questa persona detenuta. È un episodio di cui si è parlato un po' più del solito, ma sappiamo che queste violenze e queste spedizioni punitive sono quasi all'ordine del giorno. A questo punto interrompiamo le nostre notizie per farvi ascoltare un contributo che arriva, come dicevo all'inizio della trasmissione, da una radio che noi amiamo molto per la qualità delle cose che trasmette, che è Radio Cane. In questo contributo, che non è recentissimo, ma abbiamo scelto comunque di farvi ascoltare, si parla di una vicenda davvero molto, molto triste, che è accaduta il 9 di aprile, quindi appunto un po' di tempo fa, in un paesino in provincia di Trento. I carabinieri hanno inseguito fin sotto casa un uomo in macchina che era colpevole di non essersi fermato ad un loro posto di blocco, e quest'uomo di 44 anni, Matteo, ha reagito a questa vessazione da parte dei carabinieri, i quali gli hanno sparato, facendogli perdere la vita. Tutta questa vicenda ha assistito tra l'altro anche la madre, che era affacciata alla finestra, che ha visto quindi morire il figlio. Tra l'altro le hanno impedito di avvicinarsi al corpo che giaceva a terra del figlio, che era in fin di vita, e lei infermiera magari avrebbe anche potuto prestargli qualche cura, ma gliel'hanno impedito. E questo fatto, che sarebbe già di per sé agghiacciante, è ulteriormente aggravato dal fatto che in un paesino molto piccolo come questo paesino della provincia di Trento, questa persona era conosciuta come una persona da lungo tempo, qualcuno direbbe affetto da disturbi mentali. In ogni caso, da lungo tempo si sapeva nel paesino che questa persona viveva delle difficoltà da un punto di vista psicologico. Vogliamo far ascoltare questo contributo di Radio Cane, perché in questo contributo parla una compagna di Rovereto che ci parlerà di questo avvenimento, e quindi poi del presidio che è stato fatto in questo paesino in provincia di Trento, ma che collega questa vicenda anche ad un'altra vicenda terribile, che è la storia di Ambra, che il 14 marzo è morta tra le mura del carcere di Spini di Cardolo. La prima volta che qui in Trentino è stato fatto uno striscione con su scritto "Non si può morire così" era 11 anni fa, e ne abbiamo scritti tanti, cioè ne abbiamo dovuto ripetere tante volte. Venerdì 9 aprile ad Ala, o meglio a Pilcante, che è una frazioncina di questo paese in Valle Agarina, circa una ventina di chilometri da Rovereto, forse anche meno, una pattuglia di carabinieri intima l'ALT all'auto guidata da Matteo Tenni. Matteo non ha la patente, che gli è stata ritirata già da un bel po', ha 44 anni ed è seguito dai servizi psichiatrici da diversi anni. Si dice che soffra di manie di persecuzione e deliri paranoici. Effettivamente la sua pagina Facebook, che io non ho letto per la verità, a parte qualche stralcio girato sulle chat in questi giorni, è piena di rimandi complottisti, di alieni che infilano microchip nel cervello, ma anche di carabinieri che non gli rendono facile la vita. Quindi Matteo non si ferma all'ALT e va verso casa, non ha la patente e quindi ha paura, insomma, di fermarsi all'ALT dei carabinieri. Va verso casa, dove vive con sua madre, che è una donna sopra i 70 anni. Arriva e poco dopo di lui l'auto dei carabinieri, che probabilmente lo ha rincorso, o anche no, visto che l'hanno riconosciuto, quindi sanno benissimo chi è, i problemi che ha, conoscono sua madre. Comunque sta di fatto che con l'auto entrano nel cortile di casa valicando il cancello, e a questo punto la madre si affaccia, vede l'auto dei carabinieri, vede suo figlio che esce dal garage impugnando un'ascia. I carabinieri sono fuori dall'auto verso il cancello, quindi Matteo spacca i vetri dell'auto e Andreolli, scrivono i giornali, quindi sappiamo solo il cognome, punta la sua pistola di ordinanza contro Matteo e lo colpisce ad una gamba, forando l'arteria poplitea, cioè sopra il ginocchio, e quindi Matteo muore dissanguato. A sua madre, che è un'infermiera, viene fisicamente impedito di tentare di soccorrere suo figlio e le viene addirittura proibito di avvicinarsi per un ultimo saluto. Le diranno che hanno provato a tamponare con una cintura e lei lo ha visto diventare sempre più bianco e poi morire. Lunedì, questo lunedì, è già stata effettuata l'autopsia, mentre il carabiniere non è ancora stato sentito perché è troppo scosso. Però invece la madre ha già ricevuto diverse visite da parte dell'arma, anche qualcuno da Trento che gli ha chiesto: signora, ma lei è sicura che i due carabinieri fossero fuori dall'auto? Non è che si sbaglia ed erano dentro? Perché questo servirebbe a loro per avvalorare la tesi della legittima difesa di cui ha già parlato anche il PM incaricato dell'indagine. Per fortuna questa donna, nonostante la tragedia, io non so come fa a trovare questa forza, l'ammiro tantissimo, è estremamente lucida ed ha capito il tentativo di inganno e quindi ha ribadito quello che ha visto con i suoi occhi e che non credo che riuscirà mai a dimenticare. Purtroppo questo non è l'unico episodio legato al sistema repressivo in Trentino nell'ultimo mese che ha portato ad una morte. Anche domenica 14 marzo nel carcere di Spini di Gardolo a Trento è morta una ragazza di 28 anni che da 4 anni era in carcere. Si chiamava Ambra Berti e lascia due figli piccoli. Non si capisce ancora come sia morta. All'inizio le autorità del carcere hanno detto cause naturali, poi abuso di farmaci, l'abbiamo già sentita questa. Io sinceramente non sono ancora sicura se sia morta nella sua cella o in infermeria. È trapelato ad un certo punto che giorni prima avesse tentato il suicidio. Il magistrato di sorveglianza le aveva negato le misure alternative. Sia nel caso di Ambra che in quello di Matteo si è riusciti a mettersi in contatto con i parenti. La nostra consapevolezza che non sarà nelle aule dei tribunali che la verità verrà scritta non ci impedisce di supportare le famiglie nei loro tentativi in questo senso, soprattutto perché nell'uno e nell'altro caso non ci sembrano degli sprovveduti e soprattutto nel caso di Ambra non si respira nessuna fiducia nelle forze dell'ordine tra parenti e amici. Nel caso di Matteo questa coscienza, per forza di cose, visto quello che ha visto e le pressioni che le stanno facendo, credo che insomma questa coscienza sia destinata ad essere. Dal canto nostro, tornando a focalizzarci sull'ultimo omicidio, quello di Matteo, credo che si sia riusciti con varie assemblee, incontrando la madre, tentando di contattare gli amici, a raccogliere lo sdegno di molti rispetto all'operato delle forze dell'ordine, ma anche tanto alle menzogne e ai racconti diffamanti dei giornali locali e nazionali. Psicopatico aggredisce i carabinieri con un'ascia, con una foto di Matteo che sembra il cattivo per spaventare i bambini e le vecchiette. Infatti una delle intenzioni della madre e di alcuni suoi amici è proprio sfatare questo dipinto da mostro che ne vogliono fare. Matteo era alto quasi 2 metri, ma chi l'ha conosciuto lo dipinge come un uomo mansueto. Nel caso dei carabinieri di Ala è risaputo in modo anche abbastanza trasversale, diciamo, all'interno della città, che sono veramente dei farabutti. Oggi, per esempio, durante il presidio ho conosciuto una donna nata ad Ala che mi ha confessato che appena ha potuto è scappata da quel paese e c'è tornata diversi anni fa per sostenere sua nipote, poco più che maggiorenne, che dopo una perquisizione da parte del capitano Bau, si chiama così, e Andreolli, quello coinvolto nell'omicidio di Matteo, era stata indagata, processata e condannata per spaccio di sostanze stupefacenti. La cosa è che la perquisizione che ha portato poi all'arresto di questa giovane ragazza è avvenuto nel pieno della notte con una pistola puntata alla tempia. Quindi diciamo che questo Andreolli è solito tirare fuori la pistola d'ordinanza. Oggi in piazza c'era tanta gente, anche di più di quella che mi sarei aspettata visto il clima di caccia al mostro che si era sviluppato sui giornali, alcune defezioni di persone che avevano detto che sarebbero venute, nonché i controlli sulla statale che erano molto plastici. Nessuno è stato fermato, erano lì proprio per spaventare. Però fortunatamente non ci sono riusciti, quindi molte persone sono venute e anche diversi abitanti di Ala erano lì presenti in piazza e sono rimasti tutto il presidio ad ascoltare gli interventi, non solo sul caso di Matteo, ma anche su Ambra, in generale sulla gestione della pandemia, sul controllo poliziesco. Insomma, dalle facce, i commenti sembravano aver percepito molte delle cose che abbiamo vissuto anche noi. Qualcuno è, come dicevo prima, intervenuto per ricordare Matteo, che era un omone ma mite e gentile, vabbè, anche degli interventi abbastanza toccanti. E poi abbiamo ricordato Stefano Frapporti e il Circolo Cabana, dove abbiamo invitato chi volesse proseguire questo percorso forse iniziato per difenderci dai soprusi delle forze dell'ordine, ed abbiamo detto che Stefano è morto al chiuso di una galera, quindi per noi è morto di carcere, che comunque quindi gli assassini sono loro, ma nel caso di Matteo sappiamo chi è stato, con la S maiuscola dello Stato, ma pure con nome e cognome. Vabbè, per il momento solo il cognome. Nel senso che si conosce già la dinamica, non c'è bisogno di aspettare le indagini della procura per parlare di assassinio e per dire con forza che questa morte è inaccettabile. E poi a presidio concluso, quando i più anziani volevano andare a cena, i più giovani hanno fatto un giro per il paese per fare un buca buca con i volantini avanzati. Il paese è un deserto, ma non solo non c'è nessuno per strada, sembra che non ci sia nessuno nelle case. Quindi vabbè, è stato fatto questo buca buca per tornare alle auto. Il gruppone ha fatto un pezzo di statale con lo striscione "Non si può morire così". Pure la statale era vuota. Da lontano è stata vista la cerere che si schierava, ma questa cosa in un primo momento non ha preoccupato, perché tanto il gruppone poi avrebbe girato sulla sinistra per ritornare alle auto e poi disperdersi. Solo che i geni si sono schierati in modo per cui era impossibile ritornare verso la piazza. Avremmo dovuto rifare tutta la statale e fare di nuovo tutto il giro del paese per ritornare alla piazza. Si sono incaponiti, non volevano farci passare, quindi a un certo punto è cominciato un fuggi-fuggi generale. Le camionette della polizia che hanno cominciato a rincorrere in una stradina delle persone cercando di acquistare velocità, però per fortuna poi si è riusciti a calmarli. Poi qualcuno ha cercato di afferrare qualche ragazzino, tra l'altro del paese, ma anche lì tutto sommato è andato bene, solo che poi questi ragazzini si sono veramente innervositi. Cioè, erano nel loro paese, arrivano questi e "no, non puoi girare di qua, ma sei cretino". E quindi, cioè, da lì è nata una situazione un po' difficile da vivere, perché comunque mi sa che da sempre questi ragazzetti si vivono lì in paese una situazione veramente di controllo e di abusi quotidiani di cui qualcuno ci ha parlato. Perquisizioni corporali, gente portata in caserma e presa a ceffoni, ramanzine quotidiane. Insomma, sto Bau, che fortunatamente adesso è andato in pensione a quanto pare da pochissimo tempo, è conosciuto in tutta la Valle Agarina come una grandissima insomma, uno sceriffo, ecco. Mentre adesso questo Andreoli, che in un primo momento pareva quello meno aggressivo dei due, è poi invece quello che l'ha combinata peggio. Per cui, come hanno avuto un minimo una valvola di sfogo per potersi rifare con questi uomini in divisa, poi è stato insomma difficile ritornare a casa, però poi ce l'abbiamo fatta. Sì, qualcuno ha detto oggi in piazza, fortunatamente non al microfono, insomma nei capannelli di persone che si sono formati, che se avessero avuto il taser questa cosa non sarebbe successa. Quello che è successo pochi giorni fa negli Stati Uniti ci ha dato il modo di dire, eh sì, meno male che non ci avevano pure il taser, se no pensando di prendere il taser comunque avrebbero sparato. In realtà quello che noi abbiamo risposto, sì, ma perché se io non mi fermo all'alt, che tu mi conosci e sai che non c'ho la patente e sai che c'ho dei disturbi, perché mi devi rincorrere, entrare nel cancello di casa e anche volendo colpirmi col taser? Ed effettivamente a questo insomma molti hanno risposto che non c'è una risposta plausibile. Nel caso di Ambra non c'è stata nessuna risonanza mediatica, c'è stato un silenzio assordante. Dopo un presidio a Spini di Gardolo, a cui ha partecipato anche il suo ex compagno, abbiamo saputo la data dei funerali e siamo stati ai funerali di Ambra e ci siamo resi conto a un certo punto che c'era una assenza pesante, non c'era una telecamera, zero. E ovviamente non ci siamo risposti che era una forma di attenzione e di rispetto del dolore, no, era proprio una volontà di mettere sotto silenzio questa faccenda. Però anche in quel caso è stata organizzata un'iniziativa a Bolzano, sui giardini del Talvera, che è questo fiume che attraversa la città, anche lì molto partecipata, che poi si è spostata sotto il carcere di Bolzano per salutare i detenuti. Quindi anche in questo caso l'intento è proprio quello di andare contro questa volontà di silenziare il tutto, perché nel caso di Gambra è ancora più triste la faccenda, e poi in questo caso non è morta proprio una sconosciuta, ma una ragazza che in città e non solo in molti conoscevano, e quindi non sarà facile per loro che questa cosa passi senza danno, diciamo. Gli ultimi due episodi di cui abbiamo parlato hanno un filo conduttore e sono la consapevolezza dell'impunità delle forze dell'ordine e di chi li protegge, cioè la magistratura e i giornali. Sono cose che sarebbero avvenute anche nell'era pre-Covid, ma sicuramente a maggior ragione con lo strapotere, controllo poliziesco e la carta bianca assoluta che hanno e avranno nella gestione delle cosiddette emergenze sociali, dai detenuti ai folli, ai psicopatici. You're taking my life from me, leaving me this però di sicuro oggi fanno ancora più male, perché ancora più di una volta quella persona che è morta nel silenzio di una cella o col rumore assordante di una pallottola potresti essere tu, perché ci fermano tutti, ci controllano tutti, ci entrano nelle case e non ci lasciano vivere. Quindi le persecuzioni, gli alieni, cioè gli alieni erano i carabinieri, cioè purtroppo i nostri nemici non sono E.T. e i suoi cugini, ma sono persone della nostra stessa specie. Contributo molto bello da Radio Cane, ho dimenticato di dirlo prima, il cui titolo, e si capisce bene con la fine, gli unici alieni sono i carabinieri. Ci è piaciuto molto. Torniamo in voce adesso per le ultime notizie che riguardano più che altro le carceri all'estero, e partiamo dagli Stati Uniti, dove in realtà c'è una riforma abbastanza importante che sembra essere stata avviata dal nuovo presidente, che il 26 gennaio, quindi molto presto anche all'interno di quest'anno, aveva posto una firma ad un ordine esecutivo con cui si imponeva al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una riforma, un'intera riforma del sistema carcerario federale, che prevedeva, che prevede uno stop definitivo al ricorso alle prigioni private, quindi un passo molto molto importante, che in realtà non resterà probabilmente carta morta, visto che lo Stato di Washington l'ha già recepito come indirizzo che arriva dalla Casa Bianca nella direzione appunto dell'abolizione delle prigioni private. E quello che è stato approvato nello Stato di Washington è una legge in cui si include il divieto appunto di trarre profitto, vieta i centri di detenzione, diciamo, a scopo di lucro all'interno dello Stato. È un passo molto importante e, per il sistema carcerario statunitense, e è un passo molto importante perché in realtà include anche un divieto a strutture utilizzate dall'Immigration and Custom Enforcement, il famoso ICE, che è proprio l'agenzia che, diciamo, gestisce il tema della sicurezza delle frontiere, il tema dell'immigrazione. Quindi questa particolare specificità metterà al centro anche il tema della detenzione delle persone migranti. E se da un lato con questa legge e con questo indirizzo gli Stati Uniti sembrano andare verso una riforma minima ma importante delle loro prigioni, c'è da dare anche un'altra notizia che invece riguarda un tema molto delicato, che è quello della pena di morte. Il 2 giugno subirà la sua condanna a morte nello stato dell'Idaho un uomo di 65 anni. A quest'uomo di 65 anni però è stato appena diagnosticato un cancro alla vescica in fase terminale, oltre al fatto che aveva già diabete, problemi cardiaci, problemi polmonari. Quindi un accanimento, l'arrivo di questa condanna a morte il 2 giugno è davvero un accanimento ulteriore su una persona che è già in fase terminale. E restiamo ancora all'estero per parlare invece dell'Egitto. 5 organizzazioni per la tutela dei diritti umani hanno presentato un dossier in modo ufficiale al governo egiziano, 7 richieste. queste sette richieste sono relative ovviamente alle necessità più stringenti. Prevede le richieste sono la liberata immediata, l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici, un taglio delle procure criminali dedicate agli attivisti e alle attiviste dei diritti umani, il termine di detenzione senza fine che vengono continuamente rinnovate in attesa di processo, lo stop ai continui casi riciclati per non liberare i prigionieri, la revoca dello stato di emergenza imposto nel 2017 e mai revocato, e infine anche la richiesta di sbloccare i siti di informazione che sono stati oscurati durante gli ultimi anni. E c'è da dire che se al momento in modo ufficiale il governo non ha reagito in alcun modo alla presentazione di questo dossier, in realtà una sorta di risposta c'è anche in fondo già stata, e rispetto ad un caso specifico che in Egitto sta suscitando fortunatamente reazioni di diverso sdegno. È la storia di un ragazzo molto giovane deceduto in un carcere di massima sicurezza a sud del Cairo, che a fine aprile ha potuto avere un incontro all'interno del carcere con la propria famiglia e ha raccontato alla madre di aver subito torture, violenze anche di carattere sessuale. E la madre del ragazzo allora prima ha fatto, diciamo, presentato l'esposto in procura e poi ha segnalato anche l'episodio sui social media. E questa scelta della madre ha avuto in realtà delle conseguenze drammatiche, perché pochi giorni dopo gli uomini della sicurezza nazionale egiziana hanno fatto una vera e propria irruzione di notte nell'abitazione della famiglia e hanno arrestato tutte le persone presenti, compresa una figlia che è appena maggiorenne. Le hanno portati via così come erano, ancora in pigiama, senza che neppure potessero prendere degli oggetti dalla casa. Fortunatamente il padre e la figlia sono stati rilasciati nei giorni immediatamente successivi, ma la madre del detenuto è stata addirittura arrestata, è stata chiusa in carcere. L'accusa che le è stata rivolta è quella di aver aderito ad un gruppo terroristico e di aver diffuso notizie false. E tra l'altro, diciamo, l'incubo per la famiglia non è finito qui, perché lo stesso giorno del blitz un altro fratello del ragazzo, che purtroppo anche lui in carcere nella famigerata prigione di Tora al Cairo, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni nella nostra trasmissione, è stato trasferito da un'area ordinaria, è stato trasferito alla sezione di massima sicurezza, la Scorpio 1, che è quella più temuta. Quindi appunto, sebbene il governo egiziano non abbia avuto nessuna reazione ufficiale rispetto alla presentazione del dossier, è evidente che la repressione di cui che va avanti da tempo tende sempre di più ad inasprirsi. E rispetto a questo, l'ultimissima notizia che vogliamo dare riguarda appunto in parte anche l'Egitto, perché riguarda la pena di morte nel 2020, e perché il 21 di aprile Amnesty International ha diffuso il suo rapporto che riguarda appunto la pena di morte. Nel 2020 ci sono state 483 esecuzioni in 18 stati, tantissime, quindi, nonostante Amnesty segnali che c'è un decremento rispetto alle esecuzioni del 2019 e nonostante appunto segnali che si tratti comunque del dato più basso dell'ultimo decennio, ma per noi è un numero esorbitante. E diciamo, per quanto riguarda gli stati che si macchiano di questo crimine gravissimo, si può dire che in Arabia Saudita in generale le esecuzioni sono crollate parecchio di numero, ma sono addirittura triplicate in Egitto. E con quest'ultima notizia siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Addirittura d'arrivo riusciremo ad ascoltare la nostra sigla. Prima di lasciarvi però vi voglio ricordare la possibilità di contattarci all'indirizzo mail battiture@protonmail.com, e oppure sulle nostre pagine social. Abbiamo la pagina li riepilogo tutti, sono tantissimi: Facebook, Instagram, Twitter e Mastodon, non ci manca niente, non ci facciamo mancare niente. E infine abbiamo anche un canale Telegram dal nome Battiture, su cui cerchiamo di girare le notizie che ci sembrano più interessanti. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, ci risentiamo mercoledì prossimo dalle 19 su www.radiasilo.it. Se non vamo, fai se tua figlia e figliastro, ma se aggiungiamo le ferma, con te non voglio venire, io te non so niente, sono una perdita di tempo, ma si vuole da cattena, dimmi che le chiave. Signor, ti piace tenere fottere.